mio difetto è il seguente. E più passa il tempo e più me lo conferma. Più ti avvicino e più mi allontano, più ti penso intensamente e più mi manchi. Non voglio credere all'amore e non ricordi che esiste. Più mi rifiuti e più ti tratto male, mi provo a starti vicino e più sto male. E più ti tratto male e più ti voglio vicino. Dirti quello che penso, se senti quello che provo, è inutile che insista, è tutto un tempo di sbagli, non voglio vendicarmi, di nuovo con me stesso, vorrei provare quell'innocenza che mi permetta di assolvere. Mamma,